Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questa non è una novità, ma io stento a soffocare la mia invidia per Pierluigi Pardo, che è verso Oporto, è in rotta verso Oporto. Anche Giorgio De Luca, che però è reduce da un blitz a Madrid, quindi non si può lamentare perché è cosa fresca. Gianmarco Veronato invece qui da un pezzo insieme a me e a Edoardo Lavezzari. Ciao Pierluigi. È in segno di cordoglio, non abbiamo neanche messo una copertina musicale. Guarda, è fatto bene. Proprio sto salendo sull'aereo. C'è di peggio nella vita. Molti juventini come te, come te, molti juventini staranno salendo sull'aereo per Oporto, o lo faranno. Allora, sappiamo tutti che è la tua città del cuore. Consigli per il viaggio. Sì, innanzitutto Porto è una categoria dello spirito, una dimensione dell'anima, mi sono allargato, sì, abbastanza. No, cioè, mediamente, se siete stati a Lisbona e vi è piaciuta, vi piacerà anche Porto. Per me è ancora più bella, è una città di grandissimo fascino, un po' decadente, con le azulejos, che sono quelle piastrelle, come dite voi italiani, quelle piastrelle. Come dite voi italiani, piastrelle. Sì. Le azulejos, poi con questo fiume spettacolare all'altezza della Ribeira, con la Foch, cioè la foce del fiume, dalle parti di Matosinhos, insomma, veramente una bellissima città, ovviamente con un fascino appunto un po' decadente, non è esattamente la Ville Lumière, non è Parigi, possiamo dire che è una cuginetta di Napoli. Le città che hanno mare e colline. Cuginetta di Genova. Di Napoli, di Genova, esatto, in qualche modo anche di Palermo, anche di Lisbona, insomma. Quel tipo di fascino, no, molto bella. Poi c'è tutto il discorso legato al baccalà, del quale io sono abbastanza un fan. Il vigno verde, formaggi clamorosi, le olive, una cucina povera ma di grande gusto. Come ti piace il baccalà? Ma poi parliamo di calcio, ve lo prometto. Baccalà mi piace in tutti i modi. Qui la leggenda è che ci siano 365 ricette, no? Chiamano amico fedele il baccalà, perché in realtà ogni giorno praticamente lo puoi cucinare in maniera diversa. Ma anche il polpo, c'è il pulpo all'agareiro, c'è il baccalà brash, poi lo fanno in tutti i modi, lo fanno anche in delle forme e dei modi abbastanza assurde, con maiale, le vongole, fanno delle cose anche un po' tifose. Maiale, però, vongole anche no. Il baccalà domina incontrastato. Speriamo domini incontrastata anche la Juventus. Qual è il principale timore verso questa trasferta? Il principale timore è che il Porto è innanzitutto una buona squadra, non può essere sottovalutato, è battuto da 4 partite, a meno 1 dal Benfica. Il Benfica ha battuto il Borussia Dortmund la settimana scorsa, quindi per la proprietà transitiva diciamo che, ma credo che insomma lei lo sappia, è una squadra di buon livello. Ha eliminato la Roma, anche se era un'altra storia, perché ad agosto, e poi la Roma si è fatta male da sola, diciamo, tra andata e ritorno con 3 espulsi, l'ha veramente buttata via. Anzi, i primi 20 minuti al Dragao erano stati molto, molto incoraggianti per la Roma. E il rischio è quello, il rischio è essenzialmente quello, insomma, di non arrivarci nelle condizioni migliori, però è un rischio abbastanza relativo. Non sarà facile, cioè l'andata fuori casa non sarà facile, fortunatamente per la Juve poi c'è un ritorno in casa che potrebbe risolvere eventuali complicazioni, però ci vuole un approccio tosto alla partita, insomma non si scherza. La Juve non è più forte, ma il Porto se la gioca, insomma. Porto se la gioca, chiaro, la Juve non se la porta da casa, non possiamo negare che il sorteggio sia stato... comunque, al di là dell'insidia a Porto, siamo agli ottavi di Champions League, non siamo al torneo del paese, quindi è chiaro che riserva degli spunti difficili, però non possiamo negare, non abbiamo mai fatto, che la Juventus in questo sorteggio è andata bene. Sentiamo Dani Alves per quanto riguarda la sfida sul Porto. Penso della intensità, no? L'intensità che deve fare lo Porto, perché gioca in su casa, e questo è un po' difficile, no? Però penso di qui sono preparato per affrontare questo tipo di gara, questo tipo di ambiente, perché c'è abbastanza gente esperiente, abbastanza gente che sta accostumbrato a questa situazione. E penso che vamo a Porto con la massima confidenza per fare un gran partito e portare un buon risultato a Torino. Senti Pierluigi, questa è storia di domani e anche di dopodomani. Le storie di oggi di Champions League. Allora, Simeone con il suo Atletico, che è distante anni luce, perché 7 punti sono anni luce nel campionato spagnolo. In questo momento dal Real Madrid va a Leverkusen, la patria dell'aspirina. Secondo te c'è qualche rischio in questa trasferta, c'è qualche rischio in questo doppio confronto per El Cholo oppure no? E l'altra partita, non lo so, è chiaro che anche discorso parallelo vale per il City. City che non vede nemmeno più la targa del Chelsea dominatore, punta tutto sulla Champions League, un sentiero che Guardiola conosce alla perfezione, però questo Monaco guidato da Falcao mi sembra una cosa abbastanza seria. Vedi qualche rischio oppure tutto liscio? Monaco City è secondo me quasi alla pari. Poi è quasi alla pari addirittura. Il City ha qualcosa in più sicuramente, però non... Il City in questo momento è una storia di successo in questa stagione. Sì, se consideriamo la bravura almeno teorica di Guardiola e la qualità del City, insomma, il fatto che sia così distante dal Chelsea e poi continua a faticare anche l'altro giorno in FA Cup, insomma, non è una squadra né in un grande momento né con una grande situazione, quindi questi affanni potrebbero in qualche modo anche ripercuotersi sulla Champions League, mentre il Monaco è una delle novità, delle rivelazioni relative, però insomma del campionato francese si va a giocare fino alla fine, secondo me, con Paris Saint Germain. Sì. Quindi sinceramente non penso che sia facile. Poi sì, ti ha qualcosa in più e probabilmente la porterà a casa, però è un bel test. Sì. E per Simeone... quanto riguarda l'Atletico Madrid, loro storicamente negli ottavi fanno tanta fatica, nel senso che spesso hanno passato il turno ai calci di rigore, è successo col PSG, è successo anche proprio, mi sembra, con lo stesso Bayern Leverkusen. Cioè non è una squadra, l'Atletico Madrid non è mai una squadra che domina, l'Atletico Madrid è una squadra che faccio fatica a sentirti, amico mio. Io sto qua fermo seduto, ecco, meglio? Sì. Dico, l'Atletico Madrid non è una squadra che domina, quasi mai l'Atletico Madrid ridicolizza gli avversari, è una squadra che è molto brava nella gestione dei momenti, in Champions ha trovato spesso delle notti incredibili, salvo fermarsi poi due volte in finale, quindi mi aspetto che passi il turno, con una certa sofferenza, nella solita maniera dell'Atletico Madrid, magari un po' sofferta, però con qualche sofferenza, sì. Pieni un buon viaggio. Ciao, ci sentiamo da Porto. Noi ci fermiamo. Vigno verde e bacalao. Noi ci fermiamo un attimo per il traffico e poi vogliamo raccontarvi, ripercorrere, non vi raccontiamo nulla. Storie di allenatori, perché ce ne sono tante e sono molto curiosa. Tra poco. Convocati. Tutti convocati. Lasciando volare Pardo a Oporto a mangiare un bacalao. Saluto e ringrazio Gigi Cagni, nostro grande amico. Ciao Gigi. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, senti, con te vorrei provare a risolvere alcuni problemi di allenatori, ognuno al suo, dall'alto dall'altissimo della Juventus al fondo della classifica. Per esempio c'è Allegri che ha problemi con alcuni suoi giocatori, ultimo Bonucci, così Allegri. Con Leo, ma niente di che poi il rispetto ci voglia sempre, ci sono i modi per dire le cose, questo fa parte dell'educazione, e quindi però questo in momenti di tensione magari qualcuno può sbagliare. Ricordo che tu avevi pesantemente criticato la mancata stretta di mano di Dybala, ma non è stato l'unico episodio di nervosismo in casa Juve, vuol dire qualcosa? No, voglio dire che Allegri è un grande sotto questo aspetto, al di là che è un ottimo allenatore, ma come persona. E quello che ha provato lui, che sta provando in questo momento, in una situazione strana la Juventus, devo dire la verità, però sembra che abbiano dato le multe, poi non lo so, se le hanno date... Sembra strana anche a me, soprattutto perché si chiama Juventus. Appunto, le multe avrebbe potuto già darle da prima, ma sembra che solo Bonucci, non ho sentito di altri, comunque questo non è un problema, io adesso mi riferisco solo all'allenatore. Mi sono trovato anch'io in tante situazioni di questo tipo, ma soprattutto nelle situazioni in cui la squadra, io l'avevo, i giocatori li avevo da 2, 3, 4 anni addirittura. Sì. Allora si crea un rapporto con l'allenatore che dal di fuori delle volte potrebbe sembrare di un certo tipo, quando poi invece è una questione solo di stima da parte del giocatore nei confronti dell'allenatore, che in quel momento sbaglia. Sì. Però la situazione si mette a posto. Sì. Quando è così. Quando è così, e io penso che la Juventus sia così. Beh, Allegri è lì dal terzo anno, cioè si conoscono bene. Sì, no, appunto, perché poi Bonucci è un giocatore di questo tipo, perché delle volte sbaroccia, no? E quindi l'allenatore che lo conosce, è chiaro che l'allenatore poi deve essere quello più intelligente in certi momenti, quello più esperto, quello che deve fare le cose giuste, non può sbagliare l'allenatore, soprattutto a livello di comunicazione, e a quello che poi si vede a livello dei media. Sì. E quindi, secondo me, questa è una cosa che è tra di loro. E si risolve tra di loro. Assolutamente sì, ma anzi, metto una cosa in più, se è come penso io, per quello che ho vissuto poi io nella mia vita calcistica, da giocatore e da allenatore. Io con un allenatore in una partita una volta ho fatto la doccia con la bottiglia in mano. Se lui mi avesse detto qualcosa, io la bottigliata gliela davo. C'era una situazione particolare, era premeditata. No, perché era successa una cosa in campo. Ho capito. Voleva dirmi qualcosa, io ho capito che secondo me avevo ragione, ma avevo ragione. In quella situazione, io allora, per non fargli dire la cosa, ho preso la bottiglia in mano, ho fatto la doccia con la bottiglia in mano. Come dire, fa il bravo. Tra me, questo allenatore, voglio dire che è stato l'allenatore con cui ho avuto il rapporto più bello e da cui ho imparato di più. Perfettamente, sono cose che succedono anche tra amici, voglio dire. Tra tre anni con lui, quindi, posso dire. Sì. E allora, ecco, tutto questo, se è come penso io, quindi è una situazione che assolutamente porta solo vantaggi e svantaggi, se poi nello spogliatoio succede quello che io penso sia successo, che il giocatore ha chiesto scusa, è avvenuto tutto questo, è bene che succeda, è sbagliato, ma in certe situazioni... In modo da chiarirsi. Sbarocciato, per la cronaca, mi è piaciuto tantissimo, e a proposito di quelli che sbarocciano... Sarri ha problemi non con i suoi giocatori, perché mi sembrano tutti molto compatti con Sarri, ma con il suo presidente. Sentiamo. Io sono tutti i giorni a Castelvolturno e sono quello che decide, poi il presidente, chiaramente il presidente può avere la sua idea, la può esprimere, sono più contento quando l'esprimo a me, ma questo non cambia il succo delle cose. A Castelvolturno ci sono io e decido io, e secondo me si è sperimentato tutto. Allora, qui parliamo di un altro sbarocciamento, non so se esiste il termine, Gigi, ma... Non lo so. di questa cosa mi dici? Ha sbagliato il presidente, poi il presidente può dire quello che vuole, chiaramente, però nello specifico ha sbagliato a dirlo pubblicamente, perché quello che ha detto va benissimo, non ci mancherebbe che il presidente non può dire una cosa di questo tipo. In altra sede. Ma poi lì adesso oggi leggevo una cosa che forse Sarri dopo la partita col Palermo avrebbe detto me ne vado. Sai, queste sono tutte cose che poi... D'altra parte, quando c'è il silenzio stampa non possono esserci conferme né smentite, quindi ne escono di tutti i colori. Non lo so questo, io poi... Sai, dipende sempre dall'onestà di chi fa il tuo mestiere. Sì, io non lo so dire, io ho letto... E quindi poi allora posso, non giustifico, perché non giustifico mai, posso capire magari che presidente, sei in tribuna, sei vicino all'altro presidente, prendi tre pappine, rischi di prenderne altre, e in quel momento ti beccano a fare l'intervista e tu dici, certo. Chiedere di essere obiettivi e sereni a un presidente come lui diventa difficile, quindi ci sta tutto. Adesso poi quello che è tra loro due, anche questa è una cosa che se tra loro due c'è grande stima, come io penso, perché l'ha scelto lui, sì, quindi l'ha protetto, l'ha difeso. Anche se, e poi, scusami Gigi, l'altro giorno ha detto una frase che piuttosto ambigua, qui c'è chi fa gli interessi del Napoli e chi non fa e chi fa i propri. Questa frase io l'ho letta in maniera molto ambigua da parte di Laurenti. No, ma è così perché oggi i presidenti hanno ragione di pensarla così e vorrebbero che tu la pensassi così, però allo stesso modo dovrebbero essere in certe situazioni anche dalla parte dell'allenatore e magari non esonerarlo se le cose non funzionano. Perché l'allenatore quando fa gli interessi esclusivamente della società succede molte volte che viene esonerato l'allenatore, perché poi il presidente non è che ti dice ah tu hai fatto gli interessi della società, stai perdendo e ti tengo. Quindi l'allenatore oggi è in una situazione difficilissima, delicatissima, sotto questo aspetto. Infatti, non è facile fare l'azienda lì. Sei tra mille fuochi, cioè chi ha problemi con i giocatori Allegri, chi ha problemi con il presidente Sarri, c'è Spalletti invece che ha problemi con la stampa, sentiamolo. Se avessi avuto solo a che fare con voi non ci sarei ritornato, siccome c'è la gente sono ritornato, perché voi non mi state simpatici. È un problema, non si preoccupi, io sono di quelli chiarissimi, nel senso che forse se qualcuno ancora non l'ha capito, è così, per cui glielo ridico. Non mi ricordo che tu abbia dato le colpe in una lunga carriera molto spesso ai giornalisti. No, però mi è venuta la voglia. Sì, non ho dubbi, ci sta anche. No, ma qua secondo me è una situazione particolarissima, nel senso che noi non viviamo a Roma, e quindi io mi posso immaginare, tu lo sai meglio di me, del tuo mestiere, che lui tutti i giorni vive e ha vissuto da quando è arrivato, perché lui poi ha detto quando sono arrivato non mi volevate, cose di questo tipo. È tutta una storia un po' fra lui e loro. La cosa che mi, secondo me, conoscendo Luciano, è che lui non la è molto sottile e furbo in certe situazioni. Sì. Quindi se l'ha detta questa, quella di Totti, bravo, tranquillo che c'è una strategia. Bravo, esatto. Lui esatto. Ha beccato il momento giusto, lui sbaglia poco su queste cose. Esatto, perché quella, il tuo contratto, ma il contratto di Totti va rinnovato, ma ti ho chiesto del tuo contratto, sì, ma se va via Totti vado via anch'io, quella lì è strana, un'altra cosa. E questa è una strategia che solo col tempo capiremo cos'è ha fatto, ma non l'ha fatta, guarda che se è uscito in una cosa così... poi così eclatante, perché non è stupido, sapeva benissimo che questa cosa sarebbe stata messa in risalto in Italia e forse in Europa, però l'ha fatto, e quindi se l'ha fatto qualcosa c'è, e lo capiremo col tempo. Mi scrivono a proposito 800240024 per intervenire al telefono. Per lei che non è zemaniano si converta, non rimanga nell'ignoranza, lo scrivono a me. Io non sono zemaniano, l'ho sempre dichiarato, rimango sulle mie posizioni con grande rispetto, però ognuno si tiene le sue idee. Adesso tutti a parlare del ritorno di Zemanlandia dopo due giorni e un 5-0, così attacchiamo anche l'argomento Juric, che si è trovato in mano una squadra stravolta col mercato di dicembre per varie ragioni, non è riuscito a mettere i classici cubetti dei bambini nel buco rotondo. Ma vai, sì, questa è una cosa che sappiamo che è così, insomma, con qualsiasi allenatore fosse andato, avesse fatto il successo, avrebbe fatto, sarebbe stato il mago. Non è così, ma Zeman è uno così, o sei con o sei contro, nel senso contro, io non sono mai stato con, ma non Zeman, sono mai stato con quegli allenatori e non lo sono tuttora, perché siamo due categorie, quello che pensa che è il sistema di gioco quello che vince, quello che pensa che sono i giocatori che vincono. Sì. Io sono quello che dice che sono i giocatori che vincono. Io anche. Ecco perché noi non possiamo essere zemaniani, o quelli che la ragionano in questo modo, o anche i sacchiani, guarda, perché noi siamo un po' più, diciamo, meno giovani, e quindi anche c'è stato anche quel periodo. E quindi c'è questa cosa che... è chiaro che uno come Zeman, uno come Sarri o ad altri allenatori che fanno un calcio di un certo tipo, è chiaro che sono eclatanti sotto l'aspetto visivo. Sì. Poi nella pratica vai a vedere nel tempo, nel molto tempo, con le occasioni che hanno avuto, hanno vinto poco. Sì, a differenza, certo, di altri, certo, invece, che con magari non così eclatanti sotto il profilo dello spettacolo, hanno vinto di più. È facile farsi venire in mente Carlo Ancelotti, non so perché, è la prima associazione di nomi che ho fatto io, non so se è il paragone. Ma no, bisogna aggiungere, per esempio, secondo me, Allegri, con quello che hanno, con gli strumenti che hanno avuto. Certo, certo, certo. Con il materiale, certo, che hanno, certo, avuto, certo, cioè, certo, fare il paragone in questo senso, perché sai, se tu non hai i giocatori, difficilmente riesci a fare delle cose. Ah, è io, chiaro. Il Zeman personalmente, siccome con squadre allo stesso livello l'ho sempre battuto, perché aveva questa cosa di essere schematico al livello, poi se lo beccavi quando era che aveva il massimo della condizione psicofisica, era difficile, perché veramente era una roba devastante sotto l'aspetto schematico. È chiaro che se la partita è Piacenza-Lazio o Piacenza-Roma, io non posso battere Zeman, è ovvio. Quando c'è stato Piacenza, Piacenza-Foggia, gli ho dato 5 pappine. Questo è questo succede, perché, ma non solo con lui, anche con gli altri, che quelli che hanno la mentalità del pressing, che sì, sì, quelli che sono tipo, il calcio è questo ed è il mio, sono io che lo conosco. No, ma io non sono contro questo calcio, perché l'ho fatto anch'io, però sono contro al mono essere, sì, nel, sì, calcio, sì, sì, al dogmatismo esasperato, all'integralismo, chiamalo come vuoi, qualsiasi tipo di, bravo, nemmeno a me. Grazie Gigi Cagni, è sempre un piacere, mai 0-0, mai 0-0 con Gigi Cagni, ciao. Grazie, allora ci fermiamo per la borsa, torniamo 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Dunque, diamo subito qualche notizia di cronaca al volo, perché allora, ecografia negativa per Murillo, colombiano potrà giocare contro la Roma in una partita per l'Inter importantissima, vicino al rientro anche Brozovic dopo la frattura alla falange del piede destro. Poi per quanto riguarda la Juventus, tutto ok per Barzagli e Chiellini, che saranno della partita domani ad Oporto. In mezzo giocheranno Khedira e Pjanic, quindi si va verso la formula 5 stelle della Juventus attuale. Poi ci sono due indagini che stanno squassando il mondo del calcio. La prima riguarda il dito medio di Carletto Ancelotti rivolto ai tifosi dell'Hertha Berlino, che lo avevano sputazzato, ha detto lui, l'indagine è chiusa, è stato assolto, si è autotassato di 5.000 euro per questo gesto. E l'altra indagine sta squassando il mondo del calcio, arriva dall'Inghilterra e riguarda il portiere del vice portiere del Sutton Show, ma poi ne parliamo con calma, che si è sbaffato un panino nell'intervallo della partita con l'Arsenal, dato che la stazza è imponente, anche se prima sentivo Fabio Caressa usare parole davvero pesanti nei confronti di questo portiere che gioca in una squadra di dilettanti, quinta serie, sesta serie inglese, non so nemmeno come si chiami la categoria che appartiene al Sutton. Ebbene, era quotata 1-8 il fatto che avrebbe mangiato durante la partita, e pare che lui abbia ammesso che lo sapeva, e ci sono suoi amici che hanno scommesso sulla questione, e dunque andrà incontro ad una pesante sanzione. Vabbè, Carlo, provincia di Belluno, 800 24 00 24 numero verde, poi sorvoliamo Spagna e Portogallo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie dica. Per avermi convocato. Senti, grazie a lei, dica. Ho sentito che avete sì, che avete nominato Zeman, che non è tanto amato da, dall'ambiente calcistico, no, dai giornalisti. Ma no, no, no, non è vero, è un allenatore che divide. È un allenatore che divide, non è questione di amore sì, o di odio. No, no, ma divide, ma sarebbe da fargli un monumento. Cioè, io non so se sono uno dei tanti o dei pochi che a Luna avesse visto un giorno in pretura il processo al dottor Agricolo, Agricolo sì, della Juventus, eccetera. Torniamo sempre è lì. Stata una rappresentazione, e se non fosse stato per Zeman, non avremmo mai saputo noi di queste cose. Sì, cioè sì. Questo è un paese dove si porta in trasmissione Moggi, si riesuma i portieri che si facevano chiudere negli spogliatoi e si denigra Zeman, un monumento a Zeman. Sì Carlo, ma allora stavamo parlando dello Zeman allenatore, per dire la verità, non dello Zeman personaggio tutto tondo. Quelle cose le conosciamo, fanno per fortuna parte della storia, anche se recente, del nostro calcio. Stavamo chiacchierando io e Gigi Cagni di un aspetto dello Zeman tecnico, dello Zeman allenatore di calcio, non di quello che ha fatto, delle sue crociate, anzi. Ho molto apprezzato il fatto che domenica dopo la vittoria, di fronte ad una domanda su queste cose, su questi temi che lei sta riesumando, e la parola in questo caso è corretta, l'atteggiamento di Zeman sia stato un annoiato silenzio, ecco. Quindi in quello mi è piaciuto moltissimo, così come in altre cose, nella comunicazione eccetera. Per quanto riguarda il suo modo di intendere il calcio, secondo me è un po' come l'aglio: o ti piace da impazzire oppure non ti va. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Ti piace l'aglio? Qua esagerano però. Lì esagerano parecchio, sì. Sì, sì. Posso però capire. Sì, se devo rispondere, se la risposta è secca, sì. Però ho risposto prima con una connotazione ispanica, sì, un po' esagerata. Ti piace Zeman? Io come lo chiamo? Sì, Zeman mi piace, però sono con voi, insomma, l'allenatore è una cosa, il resto è Il resto è storia, dai, storia. No, l'altro giorno è stato divertente, io qua, sono intervenuto qua a una radio spagnola e infatti grandi risate, perché voglio dire, comunque una squadra che non aveva ancora vinto una partita sul campo, vince 5-0. Che non vinceva in Serie A dal 2013, peraltro. Ecco, sì, insomma, va bene, c'è stato grandi risate e fa bene, sono cose positive, per cui va benissimo. Dopodiché voi sappiamo che ci sono dei limiti evidenti, però essendo io ormai mezzo spagnolo, viva il bel calcio, anche perdere 5-4 o vincere 6-3 o vincere 4-0 come ha fatto il Porto, che tu sei andato a visionare, ecco, per la sì. Gazzetta dello Sport. Certo, hai scelto una partita contro il come si dice, Tondela? Ultimo però 4-0. La cosa più bella è che voi sono molto divertito, perché noi parliamo sempre tanto di arbitri in Italia, in Spagna, e l'altro giorno arrivo là e la cosa più bella è stata la conferenza stampa del povero Pepa, allenatore del Tondela, ultimo in classifica. Cioè, gli hanno abbastanza rubato la partita. Lui ha cominciato, gli hanno rubato la partita 4-0? Sì, aspetta però, perché il primo gol è un rigore, cioè, sì, insomma, quantomeno dubbio, mettiamola così. Con una relativa ammonizione, poi ovviamente il giocatore è un allocco, per cui 3 minuti dopo ha rimediato un'altra ammonizione, è stato espulso. Però era il 43esimo del primo tempo e il Tondela si difendeva alla grande, e ha usato il termine surreal molte volte, ma gliel'hanno rubato, avrebbe perso comunque, però diciamo che gliel'hanno aggiustata un po', sì, gliel'hanno indirizzata, no? Sì, gliel'hanno indirizzata, e tutto il mondo, il paese, insomma, godono di pochino di qualche favore così. E il Porto è una squadra strana, perché poi ho parlato con Alex Telles, giustamente lui dice, ma noi abbiamo preso solo 11 gol, no? È la difesa migliore d'Europa più o meno. Sì. Poi è chiaro, sei in Portogallo dove il gol non va di gran moda, è considerato generale, qualcosa, no, di quasi Brera, fastidioso. Sì. Esatto, si masturba la palla, no? Era sì, i famosi, sì, sì. No? Come diceva Brera, per cui il gol è un optional. E detto questo, no, è una squadra che sa giocare a calcio, è divertente, davanti hanno dei giocatori bravi, però mi sembra che la Juventus sia tanto superiore. Tanto superiore. Sì, poi dopo anche la Roma era superiore al Porto. Ma io, io resto convinto del fatto che la Roma fosse superiore al Porto, e resto abbastanza convinto del fatto di un fatto che 1-1 in Portogallo, veramente quello, certo, è un peccato capitale, che capitale. Sono d'accordissimo. Così. Io penso, non avremo mai la controprova. Se giocasse adesso in un ottavo di finale contro il Porto, il doppio confronto avrebbe un indirizzo chiaro. Filippo, ti chiedo un istante di pazienza, come se abbiamo il traffico, e poi arriviamo alla Spagna tra Atletico Madrid, la Real, i casini del Barça, eccetera. Tutti convocati. Allora, Filippo Maria Ricci, due domande in una. Come arrivano i ragazzi del Ciolo, l'Atletico Madrid, a questo impegno in casa, in farmacia, casa dell'Aspirina, casa del Bayer? E siamo proprio sicuri, prima ne parlavo con Pardo, siamo proprio sicuri che per Guardiola la strada sia spianata contro il Monaco, perché non vedo un gran City. L'Atletico arriva abbastanza bene, non benissimo. Però è sempre una squadra complicata. Nei due ottavi, gli ultimi due ottavi, ha fatto un gol l'Atletico, però ha passato il turno in entrambi i casi su rigore. E uno era proprio col Bayer Leverkusen, ha perso 1-0 là, ha vinto 1-0 in casa. Una squadra, non so, dipende molto dai suoi attaccanti. Soprattutto Griezmann ha qualche dubbio tattico, la difesa non è in gran forma. Non so, mi sembra ovviamente favorito, perché il Bayer Leverkusen sta peggio, quindi hanno tolto Çalhanoğlu, certo, no? Perché firma troppi contratti, per cui mi sembra superiore, però non di molto, mettiamola così, io vedo un 60-40. E anche il City, no, il Monaco invece mi sembra un buon momento di forma. Un eccellente momento di forma. Il City, insomma, non so, aveva trovato il Gabriel buono, adesso si è fatto male, e col Kun c'è questo rapporto strano, no, tra Guardiola e Agüero, così, di attrazione e rifiuto, sì. E non lo so, io neanche, io non la vedo tanto anche lì, sì, magari è favorito, però non in maniera eclatante, sì, ci troviamo tutti d'accordo, sì, con Paolo, sì, che siamo 51-49 in questo confronto, magari un po' di più, forse, però non tanto di più. Real post Napoli, sempre primo in Liga, ma abbastanza veleggiando. Domani gioca con Valencia. Ha recuperato Bale. Insomma, sì, sono tutti recuperati. C'ha 24 giocatori. Che, guarda, questa è una cosa che secondo me non è stata sottolineata abbastanza. Perché arrivare in questo momento della stagione, di solito ci sono sempre degli infortunati, no? Quando si dice, spesso, quando ci sono i sorteggi di Champions, no, a dicembre, poi dopo chissà uno come arriva, beh, insomma, Real Madrid arriva con tutti gli effettivi, sì, e questo già mi sembra un dato importante. E stanno bene, sì, insomma, c'è sempre Florentino, è sempre in subbuglio, no? Sempre lì una pentola a pressione, c'è sempre qualcosa da ridire. Però mi piacerebbe tanto che il Napoli facesse il miracolo, però vabbè, piacerebbe a tutti noi, ma non dobbiamo dimenticare, per ragione di onestà, che la differenza, anche per questo motivo che tu sottolineavi, adesso è tornato anche Bale, insomma, io che ho visto una cosa, è Cario, stato pagato il budget del Napoli, il fatturato del Napoli è 150 milioni di euro, Bale è stato pagato 100, quindi, ma giusto per buttare lì un esempio stupido a caso, sì, più i 96 di Cristiano Ronaldo, già, sì, quello abbiamo. No, l'altro giorno guardavo il Napoli, no, le ultime tre partite in Serie A mi sembra che abbia un parziale di 12-2, no? Se non sbaglio, forse. Sì, come si dice, torniamo sempre al discorso di quanto è allenante la Serie A. Per 12-2, poi è venuto al Bernabeu, ha perso 3-1 e non perdeva ad ottobre. Sì. No, ha lasciato delle buone cose. Guarda, io dico, in tutto questo bisogna vedere quanta autocombustione c'è, perché io ti dico che presentarsi a Napoli con Maradona nell'albergo è stata una delle sciocchezze più grosse che Napoli potesse dubbio, fare. Non c'è dubbio, e Filippo, dopo, ma presidente così, dopo, insomma, quindi adesso magari in una situazione di maggior tranquillità. Vediamo questa partita che ripeto, per i giocatori del Napoli sarà bello giocare. Un'ultima cosa, il casino a Barcellona, l'ultima è quella di Piqué, che dice eravamo nella merda qua, Luis Enrique ci ha tirato fuori. C'ha ragione. Perché voglio dire, non c'è, adesso io vivo qua la situazione veramente molto diretta e li conosco, cioè a Barcellona tanti amici giornalisti che sono quasi tutti puristi, no, diciamo del gioco e tutto, e li capisco che loro si lamentano che qua lì non è una questione solo di vincere, bisogna anche giocare bene, però voglio dire, non ci si può dimenticare che questa squadra 16-18 mesi fa ha vinto il triplete, cioè, il Real Madrid il triplete non l'ha mai vinto, cioè questi ne hanno 22, uno con Guardiola e uno con Luis Enrique, e soprattutto non è che appunto Luis Enrique sia arrivato dopo Guardiola e abbia trovato una squadra perfetta, no, assolutamente. La squadra, come dice Piquet, era nella merda, allora l'ha tirato fuori lui. L'ha detto Piquet, infatti noi citiamo, questi sono dei virgolettati, me l'ha detto lui. Allora è chiaro che Luis Enrique ha dei limiti sia di gioco che caratteriali e tutto quanto, però insomma ancora le cose, cioè, ha fatto quello che poteva, secondo me, l'ha tirata sulla squadra, che poi adesso mi si venga a dire che no, che devono giocare un calcio celestiale, non siamo d'accordo. Più che altro lì io credo sia un rapporto tra lui e le stelle che non funziona. Filippo, ci sentiamo prestissimo, a strettissimo giro di posta con Filippo Maria Ricci. Io faccio un salto a Massimo Gorini di Sky, che segue abitualmente il Napoli. Ciao Massimo, lo ringrazio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, se ne sentono di tutti i colori intorno a Napoli. Io volevo solo chiederti una conferma delle mille voci che escono in un silenzio stampa assordante, che escono sul Napoli. Ti risulta quella che è scritta oggi la Gazzetta relativa a Palermo, ad esempio? No, mi risulta, per altre cose che abbiamo già detto, che il presidente non era contento che poi Sarri abbia addirittura minacciato, anzi presentato le dimissioni è un'altra cosa. Io non mi permetto di smentire, non è mia intenzione, non voglio assolutamente, cioè, so che non era contento Sarri, questo sì, dello stato del presidente, sì. Punto. So questo. Sì, sì, questo. Sì. Come non mi risulta sì. Che l'esposizione nella foto postata da Pepe Reina della maglia blu sia stato un messaggio proprio per questo volevo chiederti, no? Perché è stata curiosa quella foto. Sì, ma è stata curiosa, ma francamente credo che sia stato proprio un discorso tecnico, a parte che sono tutti scaramantici. Il primo a esserlo è De Laurentiis, il secondo è Maurizio Sarri, che ha benedetto con la maglia bianca, quindi certo, su questo punto di vista non c'è. No, là credo che sia stato proprio un problema tecnico, nel senso che la muta era quella bianca e quindi avevano l'altra pulita, dici? Sì, perché le cambiano dal primo al secondo tempo, sì. Alla fine partita le regalano, infatti se ci fate caso sono solo due le maglie blu esposte, che era la seconda maglia che stava non riposta dai magazzini. Massimo, non vorrei fare tornare a scuola e fare l'esegesi del testo, ma quel tutti scritto in maiuscole, quella parola lavoro che è quella che usa Sarri, sono anche lì puramente casuali? Questo è il discorso maglia, è un conto. Il discorso che Pepe Reina obiettivamente abbia in qualche modo si sia fatto portavoce del dissenso dello spogliatoio sull'uscita del presidente, questo mi sembra abbastanza evidente, ma insomma nessuno ha mai detto che come tempismo e come modo insomma c'è stata un'uscita giusta e corretta. Ma anche perché io posso capire anche tutti i giocatori, escluso Insigne che è stato l'unico messo da parte da De Laurentiis, anche gli altri possono essersi un po' adirati nei confronti, ma come? Abbiamo dato sì tutto su quel benedetto e difficilissimo campo di Madrid. Tu ci dici tempi che non avevamo Tempi e modi assolutamente, secondo me, non corretti, ma insomma ci vuole poco per capirlo. Poi non escludo che qualcuno possa anche in qualche modo condividere in larga misura il pensiero del presidente. Sì, sì, sì. Cioè, padrone del vapore, spende dei soldi, ha le aspettative su una rosa che deve essere comunque valorizzata. Quindi questo è un concetto più ampio che però insomma deve essere sviluppato non certo alla fine di una partita che rimarrà alla storia. Il peccato è che adesso rimarrà alla storia soprattutto per quello che ha detto il presidente. quello è sicuro. E il punto è questo. Quello è sicuro. Grazie Massimo. Ti abbraccio. Ciao Massimo Golini da Sky. Allora ci fermiamo per il GR e poi sentiamo cosa da dirci professor Bartoletti. Convocati. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Dunque al volo, prima di uno dei momenti miei preferiti della settimana calda, della settimana un po' di musica e il professor Bartoletti, intanto leggo sui siti che sarebbe ancora qualche problemino tra Allegri e Bonucci, che scrive qualcuno è stato convocato, vado, porto, ma potrebbe addirittura finire in tribuna. Sarebbe onestamente sorprendente per me, molto sorprendente. Davide da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, buonasera. Volevo sapere, volevo, ero io che ho mandato i miei messaggi, ma su Panni. La sento piuttosto male. Su cosa? Su Zeman. Ah, su Zeman. Sì, no, a me sinceramente, se lo posso dire sinceramente, la sua risatina sulle cinque pappine che Cagni avrebbe rifilato un Piacenza Foggia perché... a Zema non è tanto piaciuta, perché me la fa la risatina anche sul 3-0 del Pescara contro il suo Vicenza, il mio Vicenza. No, il Vicenza di Cagni. Ah, Vicenza, ma sì, però non, ragazzi, io capisco l'amore per Zeman, ma non siate integralisti anche voi. A me ha fatto ridere il pappine, se mi permette, perché è un termine che mi ha fatto sorridere, non per il 5 o per il risultato, che vuole che me ne freghi. A me. È dispregiativo però, no? Ma no, dispregiativo, fa parte del linguaggio comune. Zeman ha dato 5 pappine. Mi perdoni, io credo che nessuno a Genova si hanno altri problemi cui pensare. Si adiri perché se dico che il Pescara di Zeman ha dato 5 pappine al Genoa di Juric, che è stato pure cacciato via, poveretto. Non, cerchiamo di non essere così integralisti, viviamoli in maniera un po' più rilassata. Io preferisco un sorriso in più rispetto a un sorriso in meno e a una arrabbiatura in più e in meno. Ho perso il conto. Beh, preferisco sorridere che arrabbiarmi. Prendetela così, prendetemi come sono. Nicola, buongiorno. Eccomi, salve. Cerchiamo di non essere integralisti. Ma sì, di non essere rilassati. Sia lei che Cagni sono stati integralisti. E secondo me, sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore che citava di come parlava Zeman tempo fa. E chi è contro Zeman è contro soprattutto perché ha parlato in quel modo, non perché fa un certo gioco. Che però ha parlato con... No, le assicuro. No, faccio il suo intervento. Sento un'altra cosa che ci tengo di più. Sì. Perché telefono dall'Abruzzo e volevo soltanto fare un plauso e un grande abbraccio a mister Oddo, che è stato sfortunato e sicuramente avrà un futuro in cui sentiremo ancora parlare di lui. Ecco, in questa seconda parte io abbraccio lei, perché è esattamente il pensiero che ho io. Oddo, insomma, ha sofferto tanto su quella panchina dopo aver fatto un paio di campionati bellissimi. È stato difeso giustamente, e gliel'ho detto ieri, non perché era in onda, lo ripeto oggi al presidente Sebastiani, è stato molto bravo, molto coraggioso anche nel difendere a tutti i costi l'operato di Oddo, in questo sì. Poi quanto al resto invece sorvolo semplicemente perché non è vero. Professor Bartoletti, buongiorno. È un piacere, mamma mia, c'è anche gli amici permalosi. Pensavo di essere permaloso, invece ogni tanto si impermalosisce qualcuno. Si impermalosiscono molto facilmente, Marino, ma questo mi diverte, insomma, è un modo per chiacchierare. Ma poi tu non sei permaloso, dai, è una leggenda metropolitana, Marino. Allora, io sai che con te vado abbastanza in musica, oltre che in sul Lucchero. Me l'hai inviata, lo dico pubblicamente questa, domenica sera ce l'hai questa canzone? Ero allo stadio con mio figlio, gliel'ho fatta ascoltare subito. Ascolta questa. Meraviglioso, Inno Champions al mandolino dedicato. Come si fanno a non amare a Napoli? Dimmi te come si fanno a amare. Dimmelo tu, io la amo da morire. Campagna europea, questo per parlare, affrontare il tema della campagna europea degli italiani, in parte già cominciata, come sappiamo. Attesa per la Juventus, ciclone Aurelio De Laurentiis su Napoli, Maradona che va negli spogliatoi oltre che in albergo. Ci siamo sentiti prima che tutto questo succedesse, volevo un tuo commento a posteriori. È chiaro che non è una notizia fresca, ma rimane un argomento di discussione. Ieri sera ho partecipato come sempre a una trasmissione a Napoli, a TV Luna, sì. Ci siamo accorti dopo due ore che non avevamo ancora parlato di Chievo-Napoli. Tanto era prepotente, ma ancora, certo, come certo, dire, certo, la deriva di quello che era accaduto la settimana prima a Madrid. Io ho fatto una proposta un pochino provocatoria, spero divertente, proprio sull'onda di quello che in qualche modo tu cerchi di inculcare col tuo mood radiofonico. Ho detto che secondo me De Laurentiis evidentemente ha tanti meriti, ma proprio tanti, tanti, tanti, lo dico assolutamente senza ironia, perché ha preso una società che non è soltanto patrimonio di Napoli, ma patrimonio del calcio italiano, negli stracci neanche metaforici, e l'ha portata sistematicamente in Europa. E al punto che secondo me meriterebbe, non dico un monumento, ma almeno una via, Via De Laurentiis. Poi uno la legge come vuole, naturalmente. Può essere, no, io la leggo come te, su un cartello, Via, scritto sotto De Laurentiis. Ah, signori a verbis, naturalmente. Ah, certo. Però arriva il momento in cui anche un presidente, per quanto effervescente, per quanto, come dire, autocompiacente, per quanto portato a essere un pochino padre padrone, forse dovrebbe riflettere sulle conseguenze che alcune cose che dice possono procurare, perché al momento io apprezzo il silenzio stampa per la prima volta nella mia vita, perché io sono fieramente contro il silenzio stampa, perché secondo me forse se l'è imposto anche lui, sperando che abbia capito comunque di aver detto una cosa che in qualche modo fa male anche a lui, oltre che alla società, perché ma secondo te ha sbagliato nella sostanza, sono schierati da un'altra parte. Appunto, ma sta nella sostanza o nel momento e nel modo, quello l'errore? Beh, il modo è clamoroso, Carlo, perché qualcuno ha detto che addirittura fa parte delle sue strategie, io spero di no, perché sinceramente non deporrebbe a suo favore. Certo, certo. Siamo abituati a presidenti che esternano, naturalmente. Lui è particolarmente effervescente nello sport dell'esternazione. A me è sembrato un pochino ingrato e anche inopportuno nel momento in cui ne attacca 10 di giocatori e ne salva soltanto uno, che tra l'altro era stato attaccato fino a poco tempo prima. Vero. E quindi crea una divisione che per fortuna invece crea una compattezza nella squadra straordinaria. Cioè, io credo che quella, al di là del post, del tweet di Reina, c'è, cioè, quella fotografia che è un manifesto come il quarto stato di Pelizza da Volpedo, cioè dice sì, tutto. Sì, ci sì, sono sì, i giocatori schierati con la loro maglia, di cui ci siamo dimenticati. Con la loro maglia e con Hamsik, il capitano, che la mostra. Che la hanno anche il cibo davanti, se vogliamo guardare nel dettaglio. Ci vorrebbe Sgarbi per capire questo affresco. Come dire, noi da mangiare ce l'abbiamo comunque. E la fiorezza, la dignità e il rispetto, la testa alta con cui il Napoli ha in qualche modo risposto a questa scompostezza di De Laurentiis, beh, mi ha fatto molto piacere. Dopodiché io veramente a De Laurentiis non vorrei dedicare una via, ma anche un corso, anche una venita. Io gliela passo soltanto se il Napoli batte 2-0 Real Madrid, lui dice: avete visto, avevo ragione. Ecco, a quel punto gliela passo. Ascoltami, ti porto sul terreno della blasfemia. Rischiamo il rogo, ma giustamente, con i Tribalistas. cara agora, só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Ovviamente il ruolo calcistico di, non lo rischiamo per i tribalistas che non mi stanco di ascoltare, che mi mettono allegria, mi aprono il cuore. Lo rischieremmo nel caso in cui, come fa qualcuno, ma non siamo io e te, la Santa Inquisizione è che per chi dice Gabigol come Ronaldo, primo gol al Dall'Ara, un futuro di successo, è l'idolo dei, io credo, giovani tifosi interisti che frequentano i social network. Cosa volete? È suggestione. Poi è vero che da ragazzino tra le giovanili e il calcio a 5 ha segnato più di 1000 gol, da qui il soprannome Gabigol. Si sta dimostrando un ragazzo intelligente, sta imparando molto bene l'italiano andando al cinema tutti i giorni. Resta per me un meraviglioso giocatore di calcio a 5 al momento, poi magari diventa Ronaldo, non lo so. Hai già detto tutto tu, Carlo. Guarda, io potrei essere sapido e dire che mio nonno, appassionato romagnolo, diceva, poi te lo traduco, sì. Sant'Antonio si innamora di un porco, Sant'Antonio si innamorò di un maiale. Come dire, c'è posto per tutti i sentimenti nella vita, naturalmente. Qui non ci sono né santi né maiali, naturalmente, è soltanto una metafora, speriamo che non si permologisca nessuno. Però diciamo che siamo portati un pochino, come dire, a mitizzare le nostre passioni. E il social in questo momento è diventato un volano, a volte anche un pochino, non dico pericoloso, ma un po' troppo sapido. Mm. Allora, grande rispetto per questo ragazzo, perché comunque ha avuto tanta pazienza e di conseguenza tanta professionalità, cosa che non accade tantissimo, bravo, per la verità, nel mondo del nostro calcio. Non ha mai twittato, correggimi se sbaglio, non ha una fidanzata che twitta a nome suo, mm-hmm, ha stretto i denti e è arrivato nel posto giusto, al momento giusto, in quella zolla di terra giusta in cui poteva fare qualcosa di veramente importante. Dopodiché, se qualcuno me lo paragona a Ronaldo e soprattutto alla Pantera, al primo Ronaldo, mm-hmm, sono disposto veramente per la prima volta a menare le mani in vita mia. Sì. No, non è il caso, però io condivido il profondo rispetto per il ragazzo Gabigol, per tutte le ragioni che hai elencato tu. Si è dimostrato uno con le palle, secondo me si sta dimostrando uno con le palle. Se poi sarà anche diventerà un giocatore di calcio di alto livello, dopo che è, io l'ho definito tante volte, un giocatore da Copacabana, da calcio a 5 come vuoi tu, perché hai colpi ma ce li hai in maniera sconclusionata. Io lo conosco dalle Olimpiadi, non da prima. Sì, che ha vinto, ma per come ha giocato alle Olimpiadi, a me non ha fatto tutta questa clamorosa impressione. In ogni caso, per tutto quanto il resto, hai ragione perfettamente tu. Si sta dimostrando un professionista esemplare, e da questo punto di vista ce ne fossero. Un'ultima suggestione che ti propongo. Allora, ieri è intervenuto un furibondo Francesco Baccini, genuano, doc, che ci ha raccontato questo aneddoto. Vialli, quando vinse la Sampdoria lo scudetto, mi invitò alla festa della Sampdoria. Ma Gianluca, sei pazzo? Ma no, dai, vieni, vabbè, Genova no. Io avevo appena fatto l'ino del Genova. Dico, a quella festa c'è andato Gino Paoli. Gino Paoli a Genova si sapeva che era genuano. Si presentò sul palco della festa, tanto su Rai 1, con il giubbetto degli Ultras e Vialli e Mancini che dissero: ti scortiamo noi, perché i tifosi della Sampdoria lo fischiarono perché dopo che era genuano. E i tifosi della Sampdoria dicono: cosa si fa lì? È come vedere Venditti che canta alla festa dello scudetto della Lazio. Se lo sguardo del suo mare non finisce sul tuo corpo, se non dondola il tuo sonno sulla samba delle onde, se non c'è mezzo alla gente il tuo viso che mi sente, se non c'è la tua canzone accanto a me. Genova non è la mia città, non è più grigia. Questa però me la commenti tu, Marino. Te lo devo commentare, Paoli, col più bassi che tu con cui mi colpisci, che ti devo dire, cosa devo commentare? No, questa cosa di Gino Paoli con giubbotto da Sampdoria, lui che è genuano, e Baccini che dice: no, io non ero amico di Vialli ma non ci sono andato, mi è sembrato un siparietto simpatico, no? Dic- ecco, cataloghiamolo come siparietto, rubrichiamolo come rubrichiamolo così. Io ne approfitto soltanto per mandare la mia solidarietà umana a Juric, questo. Sì, qui hanno disfatto la squadra e poi gli hanno detto: ma come, non riesci a mettere, uso l'esempio di prima, i pioli rotondi nei buchi quadrati, via. Guarda, io non sono per i fanatismi, sono per le contaminazioni. In questo momento rispondo a quello che mi hai chiesto prima, perché comunque si può convivere tranquillamente e civilmente nella stessa città, anzi secondo me sono piccole lezioni che in qualche modo vanno interpretate e decodificate. Per quanto riguarda Juric, sai, chi va al Genoa secondo me soffre, o perlomeno sa di soffrire, del complesso di Sisifo, ricorderai, l'abbiamo studiato tutti, Sisifo era quel umano, in parte semidio, che fece un po' il birichino, allora gli dei lo condannarono a spingere un masso su una montagna per tutta la vita, poi dispettosamente quando arrivava in cima glielo facevano cadere giù. Ecco, chi va al Genoa sa che questo può succedere effettivamente, perché praticamente ti distruggono tutta la pagina della figurina, delle figurine Panini che avevi già incollato, e poi ti dicono adesso comincia la Second Life con questa squadra. Licenziarlo mi sembra sinceramente abbastanza ingrato, diciamo che la mia solidarietà umana gli va tutto. Sì. E poi Dio, come si canta bene a Genova, che facciamo sì. Un trattato sulla scuola genovese? Beh, un trattato sulla scuola genovese avremo bisogno di un moltissimo tempo. Ma prima o poi penso che lo faremo. Mi fai fare gli auguri a due persone, uno ce lo teniamo per noi, perché è una persona a cui vogliamo bene e per il quale stiamo incrociando le dita in questo momento. Esatto. L'altro invece è un ragazzo di 77 anni che oggi compie gli anni, che è Bruno Volchi, Bruno Maciste Volchi, che ha il merito di essere stato la prima figurina Panini. Vero, perché fu su di lui che fecero sperimentazione, fu di lui che da tessera in bianco e nero diventò attraverso la pittura in acquerello una figurina a colori, e lì nacque la nostra felicità con la colla dietro. Bravissimo, il mento col buchino di Bruno Maciste Volchi. Proprio lui. Proprio lui. Ho visto anche uno scudetto col mago, poi ci vado un po' per varie società. Marino, non so come farò senza di te ad arginare l'onda degli zemaniani, integralisti e molto permalosi. Ma guarda, forse l'unica cosa che ci divide, io sono zemaniano sinceramente. Anche io no, ci vogliamo bene lo stesso. Anche se l'età non lo ha aiutato, come non aiuta noi persone anziane naturalmente, perché si è un po', come dire, sclerotizzato su certe idee che potevano avere una loro freschezza, una loro valenza, ma lo considero soprattutto una persona molto onesta e molto sincera. Certamente è difficile pensare che, per quanto onesto, sincero e bravo, possa arrivare su una piazza che tutti amiamo, se non altro perché è in Abruzzo, e fare il miracolo in due giorni. Questo fa venire qualche sospetto sul figlio di buon adonismo dei giocatori. È stata la prima cosa che ho detto anch'io, senza consultarti prima. È stata la prima cosa che ho detto io domenica. Dopodiché, lunga vita al Pescara. Lunga vita al Pescara. Tutta la mia simpatia, anche perché è un grande presidente, veramente un grande. Esatto. Che abbiamo sentito un grande rispetto ieri. Grazie, Marino. Alla prossima. Un abbraccio. Sempre un enorme piacere. Grazie, Marino Bartoletti. Io volo da Emanuele Corazzi, che di Fox, come sapete, che ieri sera ha commentato una partita destinata a far discutere, cioè Arsenal-Sutton. Ciao Emanuele. Ciao a tutti. Che ha creato, tra le altre cose, allora ha vinto l'Arsenal 2-0 contro il Sutton, che è una squadra di dilettantissimi, no? Quinta categoria. Quinta serie, italiana. L'eccellenza italiana, perfetto. Il Lincoln City è la prima squadra di dilettanti ad approdare ai quarti dell'FA Cup dal 1914, e questa è storia. Lo United ha avuto bisogno di Ibrahimovic alla fine per battere Blackburn, e poi c'è questo enorme scandalo. Shaw, portiere di riserva del Sutton, che mangia nell'intervallo un panino, e poi che succede? Cosa succede? Che in realtà lui inizia a mangiare questa torta salata quando la sua squadra ha finito i tre cambi. Tanto per essere chiari con tutti, Shaw a 45 anni, in teoria è il preparatore dei portieri, stiamo parlando di una squadra di eccellenza, quindi si porta il preparatore come secondo portiere. È diventato un po' l'icona del Sutton, perché ovviamente un portiere di 120 kg contro una squadra di Premier League non si è mai visto, e ieri, finiti i cambi, si mangia questa torta salata. Non fosse che poi è uscita questa polemica, perché era d'accordo con un'agenzia di scommesse, la Sunbet, che ieri ha sponsorizzato le maglie del Sutton, dei cartelloni pubblicitari allo stadio e si poteva scommettere su Show che si mangiasse una torta salata in panchina, quindi è stato tutto una trovata pubblicitaria in realtà della questa agenzia di scommesse legata al Sun, al quotidiano, al sì. tabloid inglese insomma. E lui ha ammesso di averlo fatto apposta. Che non ha mai avuto le telecamere addosso, appena le ha viste, qualcuno ha voluto cavalcare la situazione. Dai, ho fatto un sacco di interviste, ho fatto vedere questi spogliatoi meravigliosi del Sutton con i bagni attaccati al muro, stile autogrill, con solo 4 docce calde per i giocatori dell'Arsenal. No, lasciamogli un po' di gloria, dai. Lasciamogli un po' di gloria. Comunque lui ha ammesso tutto, cioè ha ammesso di averlo fatto apposta, di sapere tutto, di essere al corrente di questo 8 contro 1 sul fatto che avrebbe appunto ingoiato qualche cosa, quindi ciò ha portato. Ha voluto mettere anche i familiari, probabilmente. Sì, sì, sì. Ha voluto un po' lucrare, no, magari. Io prima ho sentito un commento estremamente duro di Fabio Caressa nei confronti di Show, sì. E mi è sembrato, se devo dire la verità, anche un po' eccessivo. Ma comunque, va bene, sorvoliamo su questo e rimaniamo su una Coppa d'Inghilterra che regala Tottenham Millwall per la serie Millwall, squadra di brutti, sporchi e cattivi che va avanti, un Chelsea-Manchester United che invece è un'altra storia. Bisogna vedere Huddersfield-Manchester City perché all'andata, perché la gara 1 è 0-0 e quindi serve il replay, immaginati l'Huddersfield. Sì, in questo momento l'Huddersfield negli ultimi anni è una squadra che è un po' cresciuta e è riuscita a strappare questo 0-0 e poi questa formula che prevede il replay, i giocatori veramente sono felici nel momento in cui possono andare a giocare in un grande stadio, quindi in questo caso per i giocatori dell'Huddersfield significa andare a giocare all'Etihad. Va bene, la Coppa delle Sorprese, credo che il City in casa contro l'Huddersfield martedì prossimo possa riuscire ad accedere ai quarti di finale. Diciamo che ce la potrebbe fare. Grazie Emanuele, sì. Ce la potrebbe fare il City. E comunque lunga vita Show, allo Show di Show. Lunghissima vita Wayne Show. Grazie Emanuele Corazzi, grazie a tutti, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani, tutti convocati alle 2, ragazzi. Ciao.